Mi cut, poi mettono pe spalta, piglia acqua e bindo come ha fatto President con Victor Osimhen, sotto un mini jaler, per chi sta fa silenzio. A giri nudo tra stadio, rindo di imbagato, rigno in un bicchiere racco. Agenda non mi chiama jaler, mi chiama perché se lo vado avanti. Ho visto chi ne parlotto, laga quando faccio rap e scelgo sangue per bocca. La cosa bella non è gara casa, vega Gabri, me da Gabri casa, vera casa mia e me è costata nudotto, se sape. Sono asciuto in prima pagina con un giornale. Mi hanno criticato perché viaggio con privato e poi quando ne piglio si è ghizzato. L'inquinamento a livello mondiale. Sono asciuto a Sanremo vincendo nonostante c'è perso per 29.30. Tengo un sacco di compagni che si avano una sentenza l'anno sui 29.30. Poi mi guarda tuono e tengo luce, ma rotto sta bacca troppo rossa, tengo pure a scialuppo. Insomma è cagnato, manco roppo, ma loppo, perché sto quando tra si fanno stop. Si da netto contro quinto virato. Si da conviene da mettere contro sima mille noi. Si da come vongola che stanno rindo stesso piatto. Si sputano in gollo quinto shh, virato. State in domeno, però non va a catto. Si do scarte senza color. Dori un amici, sta faccia mica addob. Per vire con l'anna che mi mette tenga a 24-7, 365 giorni. Faccio piglia l'ansiolitico che lirico. Si venga all'ore un minimo. Si veda lo varicero che non era a competere. Su sbuffano e sull'evero. Poi mi fanno l'effetto rossonifero. Ma fanno capo e capi. Allora sono all'unisono. Ma sono dell'algoritmo. Mi trovo in tale dico. La mia prima pagina con manutivo. Però venga Dori on e sono rimasto sempre singolo. Si ti chiami in quella allora scivola. Io sono con un punto tu navigola. Tengo troppo pippa le pomme porta a pista in giro con l'ubilica a te non credono, credono. Sono vero come filo non con l'occhio fuori calcio. Come femmina che fanno pure amata pure mamma. Sono vero come segna che te lasci in manetta. Lo che posso la tua voglia netta studio non da un attimo. Mi dare retta a chi si scema fanno solamente chiacchiere. Lo che posso la tua coglionetta studio non da un attimo.